questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a RadioTube anche in questo sabato di ottobre. Inizia il mese di ottobre, il mio mese bello. Preferito, bello ottobre. Anche in questo sabato l'appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, anche il perdibile. Questa settimana un po' di perdibile c'è, della Però siamo serie, questa settimana siamo abbastanza serie. Abbiamo anche dei temi importanti. Tranne, sì, molto importanti, soprattutto alla fine un tema interessantissimo. Ma io volevo dire questo, che numero è? No, allora, perché questa è la settima puntata della seconda stagione, sì, bisogna fare più 57. Quindi fa 64, giusto? 64 puntate. No, perché pensavo come passa il tempo quando ci si diverte, avevamo perso il conto perché ci eravamo divertiti, quindi 64. No, io sono la per 64. 64esima. Com'è stata la settimana per te, Daniele? Ma sono andato in giro a cercare Marta, 28 anni. Quella di Renzi, non l'hai trovata? Non l'abbiamo trovata. Non l'abbiamo trovata. Noi siamo sempre alla ricerca di Marta, 28 anni. Abbiamo una Marta più giovane qui in studio sì, che ha come account @MartaCagnola. Poi un giovanissimo @di Bellasio e potete scriverci utilizzando anche l'hashtag RadioTube. Senti, ma non svicolare, com'è stata la settimana? Hai visto per caso delle partite di calcio? No, non ho visto quella partita, però ho visto su Facebook Sergio Scalpelli, che tra l'altro è il direttore delle relazioni esterne di Fastweb, che ha postato una cosa che io non ricordavo assolutamente e forse non avevo neanche mai visto prima. È una cosa che mostriamo non perché io voglio parlare sempre delle mie ossessioni nerazzurre, diciamo così, amalo, ma perché lui. Era una citazione divertente, non me la ricordavo, tu te la ricordavi? Figura. Io no, più o meno mi ricordavo la scena, non mi ricordavo il dettaglio. Beh, allora, il film però me lo ricordavo bene, che era Tre uomini e una gamba, un momento di grande autoironia di Daniele Bellasio, eccolo. Sentiamo. Qua. Lo sai che con 20 milioni si può comprare un bar in Costa Rica? Sulla spiaggia, sole, mare, un sacco di palme. Tutto l'anno in costume? Tutto l'anno in costume. Nessuno che ti rompe le palle, che ti dice quello che devi fare. Certo ci vuole coraggio, bisogna abbandonare tutto. E se ti va male? Eh beh, il rischio c'è. Del resto, se non rischi, tu non hai mai rischiato. Una volta ho messo due fisse a Intercagliere. Beh, c'è anche Rudy in regia, il nostro Fabio Cantadori che ride da milanista. Vabbè, no, dai, un momento di autoironia. Per la cronaca è finita 1-4, se non ricordo male, no, perché no, ho tentato di rimuovere l'evento. Peraltro, un bar in Costa Rica. Comunque, è un suggerimento, niente esatto, male. Esatto, cominciamo a prendere nota. Sai che giorno è oggi? Oggi? No. Oggi è il 4 ottobre. E sai chi compie gli anni il 4 tu? Ottobre? No. No, io Fabio Cantadori. Il 22. No. Nemmeno tu perché li compi il 26. Sì, sappiamo tutto di tutti. Il 4 chi li compie? Compie 15 anni Radio 24. Ah, è vero, ecco perché c'è questo clima di gioia nell'aria. Sì, sì, perché e tu c'eri, quanti ne compi a Radio 24? Io ne compio un pochino meno perché sono arrivata il 7 marzo del 2000. Cioè la data scolpita. Scolpita nella memoria. Pensa, insomma, io chi l'avrebbe detto che mi avresti conosciuto qui, in questi studi. Incredibile. Io però vorrei festeggiare Radio 24. Io vorrei festeggiare Radio 24 con qualcosa che sarebbe diventato virale se fosse stato messo in rete. Anzi, magari lo mettiamo in rete e così diventerà virale. La passione si sente? La passione si sente anche nelle gaffe più belle. No, scherzi a parte siamo. Eccole qua. Paperissima. Eccole Paperissima le gaffe 24. Più belle dei conduttori di Radio 24. Sono le 1400. GR24. Buongiorno Adriana, buongiorno agli ascoltatori. Scoperte evasioni per 2 miliardi nel solo 2011, circa un quarto, cioè 453 milioni. Altri numeri impressionanti: 43.500 interventi per la verifica di scontrini, ricevute e documenti di merci viaggianti scoprendo irregolarità nel 31% dei casi. Ed è tutto per adesso. Emergency, rientrato rinviato il rientro a domani, un equivoco, il no al volo di Stato. Consiglio dei Ministri questa mattina a Palazzo Chigi all'ordine del giorno della riunione presieduta da Silvio Berlusconi, anche l'approvazione del Piano Sanitario Nazionale. È tutto per questa edizione, sono le 10:07, tra poco c'è Salva Danaio, la prossima edizione di GR24 andrà in onda alle 11. Salva da noi. Vabbè, però potevi metterne una nostra. Anche. Ma sai perché fatto. Non le ho trovate? Ce ne sarebbero. Dai, ma non ce n'era neanche una. Una l'ho messa sul blog. Potevi prendere. E poi non ci sono i big, però, Cruciani, Spezia. Ho preso quelle del Milan. Ho preso quelle del giornale radio. Solo le news quest'anno. Perché erano più carine. Quando ne compie, non so, 20, prendiamo quelle delle altre trasmissioni. Solo quelle dei colleghi del giornale radio. Brava, molto, molto bene, li conserva il nostro Michele Previato, le conserva le nostre. Cosa dici? Cantiamo? Cantiamo tanti auguri. Mamma mia, forse non lo facciamo. Non lo facciamo, però allora tanti auguri a Radio 24 che compie 15 anni. Portati bene, benissimo. E spesi bene. YouTube. Rieccoci insieme dopo aver festeggiato il 15° compleanno di Radio 24. Mi è piaciuto tanto il regalo. Ti sei divertito con le papere? Sì, perché sono tenere. Ma perché andiamo tanto in diretta? No, ma poi appunto era il bello della diretta. E poi il fatto che tu le avessi, questo mi ha le ho chiesto ai nostri tecnici che giustamente si divertono. Però le hanno regalate a noi di RadioTube. Sì, questo che è bello, capito? Sì, sì. Allora, ma caro non Daniele, non dovevamo fare una moratoria renziana? Avevi detto adesso sì, basta. Ho detto, ma parliamo sempre di Renzi. E poi ho detto, ma parliamo sempre di House of Cards. Che noia. Questa volta di cosa parliamo? Sembriamo noi, Raimondo e Sandra. Un po' Raimondo e Sandra. Parliamo di Renzi e di House of Cards. Benissimo. Dai, era inevitabile perché l'abbiamo già detto del tuo conflitto di interesse e tu non vuoi mai parlare stavolta bisogna parlarne, perché è successa una cosa molto interessante. Preveggenti, avevamo già stuzzicato l'immaginario degli ascoltatori dicendo Matteo Renzi aveva consigliato di vedere alcune serie TV americane, è molto appassionato di serie TV americane. E cosa è successo? Durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, quella di domenica scorsa, che poi era la prima perché il sabato adesso si chiama in un altro modo, ma insomma, la puntata di domenica scorsa con ospite Matteo Renzi, ebbene Fabio Fazio gli ha detto: guardiamo insieme uno spicchio di una serie TV, ed era proprio quella di qui sopra, House of Cards. Ma sentiamo cosa è successo domenica scorsa. Ogni gattino cresce per diventare un gatto. Sembrano così indifesi all'inizio, piccoli, tranquilli. È bello vedere quando prendono il latte, ma una volta che imparano a graffiare fanno sanguinare a volte la stessa mano che le nutre. Quelli che sono al vertice della catena alimentare non possono avere nessuna pietà. Esiste una regola sola: o cacci oppure vieni cacciato. Bentornati. E come ha commentato Matteo Renzi insieme a Fabio Fazio questo spezzone di House of Cards? Eccolo. Una botta di vino. No, è così, il potere no. È questo. Assolutamente no. House of Cards è una straordinaria fiction, viene da un libro anche molto bello per chi l'ha letto. Dopodiché ma il potere è questo? No, questi mesi il potere lei è esattamente l'opposto per me. Il potere è prendersi cura. Poi io immagino che noi parleremo del mondo del lavoro. Assolutamente. Ma se c'è solo una cosa evidente oggi per me di definizione del potere è prendersi cura. Caricarsi la responsabilità degli altri. Quando c'hai un disoccupato non devi fare una battaglia ideologica sull'articolo 18. Devi far sì che quel disoccupato trovi lavoro. E beh, insomma, fin qua allora cosa è successo? Due gradi di separazione tra House of Cards e articolo 18. Certo. Cioè, è in volo. No, scusami, ti ho interrotto. No, cosa dicevo successo? Che poi c'è un nuovo passaggio, Sì, perché certo. L'autore di House of Cards ha in un certo senso, non dico risposto, a Matteo Renzi. Voglio diciamo dire, che ha un po' commentato. Sì, però francamente non è che ci voleva che l'autore ce lo dicesse che non è un manuale della buona e bella politica. No, certo, però insomma evidentemente Michael Dobbs, che è un uomo molto spiritoso, e ricordo che noi ce l'abbiamo avuto ospite a Radio 2, cioè, perché non ci facciamo tu fai le grandi interviste di Marta Cagnola. Non ci facciamo mancare nulla. Ecco cosa ha detto Michael Dobbs, l'ha anche twittato, sono solo pochissimi secondi, ma ascoltiamoli. Walking into a bookshop in Rome and buying a copy, I thought it prudent to drop him a note and remind him that it's a work of entertainment rather than a set of instructions. Allora, era l'International Communication Summit Europe 2014. Quando ho saputo che Renzi aveva acquistato una copia in libreria a Roma, ho ritenuto prudente mandargli una nota per ricordargli che il libro è solo intrattenimento e non un manuale di istruzioni. Bah, insomma, un po' lo avevamo intuito, ma che Però io voglio continuare a parlarne, ma non solo per questi per questi dati di cronaca televisiva e anche, insomma, di web tv, perché tutti erano lì a twittare quella sera, di social tv erano tutti lì a twittare quella sera durante Che tempo che fa, ma anche perché è uscito un libro che si chiama Siamo tutti storyteller per Amigdala, dalla fiction americana alla politica. Quindi, caro Daniele, non è solo una storia che continuiamo a raccontarci io e te. No, c'è anche uno studio che peraltro serio, sai che peraltro adesso magari sai che la seconda stagione si sta riprendendo. Sì, ti sta piacendo. Sì, no, le prime due puntate per nulla, non spoilerò nulla, c'è una scena bellissima. Però adesso ti piace di più. Vabbè, sì, insomma, raccontano una storia, storytelling. Torniamo allo storytelling. Che parola un po' vietata, eh? Diciamo la verità, è quasi come narrazione. Adesso glielo chiediamo insieme a Ester Mieli, ha scritto questo Siamo tutti storyteller. Lui insegna storytelling e narrazione d'impresa all'Università degli Studi di Pavia, ma ha anche scritto appunto Siamo tutti storyteller. Buonasera Andrea Fontana. Buonasera. Andrea, intanto ti chiedo se ti ha stupito questo successo, insomma anche un po' mediatico. Allora, House of Cards è molto popolare, ne parlano molti giornalisti, va in onda su Sky Atlantic, quindi il grande pubblico non l'ha forse ancora vista del tutto, eppure per quanto riguarda questi temi è diventata un riferimento. Questa cosa ti ha stupito? Ma direi di no, perché oggi le grandi fiction hanno sostituito quello che un tempo erano i romanzi, il cinema, quindi oggi la grande narrazione passa attraverso le grandi fiction e sicuramente House of Cards sta raccontando grandi problemi del nostro tempo ed era inevitabile che avesse questo grande successo. Allora, una cosa clamorosa era successa, diciamo che House of Cards negli Stati Uniti non esce puntata dopo puntata, ma uscendo su Netflix viene messa in rete, diciamo, tutta insieme. E quando uscì, non si può neanche più dire questo verbo, ma diciamo quando arrivò, Obama scrisse no spoilers please, prima della seconda stagione, non svelatemi niente perché ho altro da fare. Io sono un po' impegnato. Barack Obama, non ditemi niente perché me la voglio vedere con calma. E lo stesso Barack Obama disse, e lo leggo proprio dal tuo libro, la mia vita è decisamente più noiosa di quella di Frank Underwood. Però tu, Andrea, scrivi insieme a Ester Mieli che questa serie ha successo semplicemente perché racconta un punto di vista interno. E questo è particolarmente interessante per quanto riguarda appunto il rapporto con la politica e con i politici a questo punto. È assolutamente così. House of Cards probabilmente è una fiction disvelatrice, ci fa vedere il punto di vista interno e ci fa scoprire che cosa significhi veramente, tra virgolette il veramente perché è comunque una fiction, gestire il potere. Naturalmente lo fa in modo drammatico, ma siamo messi di fronte ai dilemmi della gestione del potere. Credo che uno dei grandi aspetti per cui questa serie ha successo e ci attrae è che, come viene sottolineato nella fiction stessa, il potere è sangue. Anche dalla copertina, alcune cover di questa fiction, no? Sangue nel senso nobile e drammatico del termine, sangue perché è passione, è coinvolgimento, ma sangue perché è anche guerra per il potere, sopraffazione, avidità e insomma è tutto quel mondo di emozioni che implica poter avere il dominio di se stessi e degli altri. Ma Andrea, non trovi che nel raccontare le storie che hanno maggior successo in televisione negli ultimi anni ci sia un voler aderire un po' tanto, un po' troppo a quello che il telespettatore vuole sentirsi dire? Cioè, mi spiego, House of Cards in fondo dice quello che nel mondo è percepito come un malessere nei confronti della politica, diffuso soprattutto nelle società occidentali, no? Per cui la politica è tutta gestione del potere, sporco e sangue, come dicevi. Quindi molto originale nel modo di trattare l'argomento, ma molto furbo, perché l'argomento dice esattamente quello che il telespettatore vuole sentirsi dire. Forse è anche un po' questa la ragione del successo, oppure è una mia impressione? No, hai assolutamente ragione. Oggi, d'altronde, le grandi narrazioni, le grandi fiction, i grandi storyteller sanno benissimo che bisogna andare incontro ai pubblici. I pubblici oggi sono più smagati, più consapevoli, più attenti di un tempo, e quindi è ovvio che se vogliamo raccontare il potere non possiamo raccontarglielo in modo eccessivamente solare. Dobbiamo oggi raccontare anche i lati scuri, perché il pubblico è diventato sicuramente molto più maturo. Quindi c'è questo aspetto di collusione, se vogliamo, tra chi guarda e chi produce fiction. Nel libro, a un certo punto, prendete la parola casta e dici che nella parola casta troviamo quindi tutto un potenziale narrativo e contronarrativo da poter usare e spendere. Ci spieghi, secondo te, quali sono stati gli ingredienti del successo dal punto di vista della storia raccontata, però anche dei libri venduti, della politica? La parola casta è diventato quasi, nella sua avversione alla casta, un programma elettorale del secondo partito, del terzo, secondo, insomma, dei risultati. E qual è l'ingrediente di successo di una storia che nasce da una parola? È quello che dicevamo prima, i racconti oggi passano attraverso le parole. Bisogna essere molto attenti a quelle che sono le parole che generano più risonanza, no? Oggi un'altra parola chiave è risonanza, cioè risonanza emotiva con i pubblici. Il termine casta è diventato di successo e importante, soprattutto in Italia, nel momento in cui si è generato un sentimento quasi di rifiuto della politica, e quindi diciamo, gli storyteller bravi, o comunque i bravi produttori di letteratura politica, si sono accorti che questo termine poteva essere sfruttato per generare un sentimento di riconoscimento nei pubblici che in un certo periodo della nostra storia italiana in qualche modo avversano, quasi odiano la politica, e quindi tutto ciò che ha a che fare con la casta diventa un elemento da usare pro e contro il racconto, la retorica politica stessa. D'altronde Beppe Grillo ha costruito sopra questo frame narrativo, sopra questa cornice narrativa, buona parte del suo successo iniziale, perlomeno. Devo ricordare il libro, che è Siamo tutti storyteller, di Esther Mieli e Andrea Fontana, edito come ebook da Amigdala, invece come libro cartaceo da Giulio Perrone Editore. Grazie e buona serata, Andrea Fontana. Ciao. Grazie, buona serata a voi. YouTube. Rieccoci insieme dopo la nostra pausa, li ripetiamo il nostro hashtag e i nostri account, Daniele? Ma direi di sì, @MartaCagnola, @DiBellasio e l'hashtag RadioTube. Per tutti coloro che usassero Twitter. Per quelli che usano Facebook? Ma sai che io Facebook mi annoio, non lo uso tanto. Un po' ritornando. Ho fatto tutte le papere per il compleanno di Radio 24. Per il compleanno di Radio 24. Auguri. Tanti auguri, 15 anni di Radio 24. Auguri. Sai che cosa è successo qualche giorno fa? Non ne ha parlato nessuno. Un evento che è passato un po' inosservato. Cosa è successo? Si è sposato George Clooney. Ah, a Venezia. Ma una cosa discreta. Sai che c'è dibattito? Ma è George Clooney. Tu, secondo te, sì, al turismo, alla città, sì, di Venezia, all'Italia, sì, il fatto che George Clooney, probabilmente futuro candidato addirittura in politica, sì, gran bell'uomo, tutte queste cose, sì, qua, si sposi a Venezia, fa bene o fa male? Allora, mi hanno detto tutte le mie amiche che erano lì, perché ce n'erano varie a seguire l'evento. Amiche invitate? No, avevo amiche che lì con a macinare chilometri, sì, a cercare di trovare uno straccio di notizia, che c'era il doppio di gente, anche di più rispetto a quanto ce n'era nei giorni della mostra del cinema. E questo però, insomma, ci è un deve po' lasciar tri- pensare. Ecco, ci lascia pensare. Però non facciamo nemmeno i barbogi. No, però devo dire che, nonostante a me Posso, cioè non me ne frega proprio, no, non vabbè, mi interessava niente, vabbè, ma non importa, anche perché, lo dico, secondo me il fatto che lui un domani si candidi non è proprio estraneo a questa... Cioè, a questa sei questo, maliziosa. Un filino, vabbè. No, penso che faccia molto bene perché comunque alla penso fine anch'io. L'Italia... Cioè, in quei giorni i giornali americani che io leggo di notte quando non dormo, tutti che raccontavano, ci si va a sposare in Italia, si va in bellissimo... Secondo me tutto sommato fa bene e l'Italia è venuta fuori bene. Ma sì, infatti, io la penso allo stesso modo. Ma perché stiamo parlando di Venezia e di George Clooney? Perché io avevo ce un amico che era invitato ma non è potuto andare. Ah. Sai chi? No. Pinuccio. Pinuccio, ecco. Ma c'è anche Sabino. C'è Sabino. Guarda, vabbè non l'ho censurato. Eccolo qua. Pronto? George Pinuccio IEM. Shish. Auguri, auguri a te e Aurin, Ariel, come cazzo si chiama? Quella là, vabbè, straniero, io con i nomi stranieri non tanto, auguri, bella, bellissima lei, veramente, molto fine. Il vestito non tanto, sembrava un imbuto, però vabbè, questi erano i gusti suoi, delle parti sue, ognuno c'ha le usanze sue, ognuno c'ha le usanze sue. Senti, beh, vabbè, Sabino, vuoi dire qualcosa a Giorgio? Ma tu non eri ricchione! No, niente, niente, no, no, auguri, fai auguri, mi raccomando, figli maschi, auguri anche per la carriera politica tua, anzi, a proposito, se poi tu vuoi candidare in Italia pure, anzi, no, qua in Italia non si candidano, se vuoi venire ti fa un presidente, vedi una cosa, simpatico, e ti fa un presidente. Beh, auguri di nuovo, shish, many things. Many things è tornato. Many things è tornato e poi shish l'ha preso shish. Da Renzi. Ah, l'ha preso da Renzi. Shish is the word. Infatti c'era un po' di renzismo, corrosivo questo Pinuccio. Non abbiamo censurato nulla. I nostri avvocati sono già avvertiti. Stanno temperando la matita. Ma c'è una trasmissione di cui non abbiamo ancora parlato, Daniele. L'anno scorso sì, però cioè, fa tutti i record di ascolto di Twitter. Cioè, anche se non è in cima alla classifica Auditel, ma è sempre in cima alla classifica dei ratings. E siccome tra poco arrivano anche i ratings su Twitter, dobbiamo parlare di Pechino Express. Non abbiamo ancora parlato. Anche perché, posso fare il tecnico una volta? Sì. Ma c'è un po' di ritorno di Rai 2? Rai 2 considerata la sorella un po', diciamo... E invece, quatta quatta, l'MLM, zitta zitta, Rai metti un talent, sta... quelli che cantano, Pechino Express, persino Nicola Porro, Virus e via. Allora, facciamo una cosa, intanto entriamo così un po' nel clima di Pechino Express con il video più visto sul sito, a parte quelli delle puntate intere, il video più visto è quello di Costantino della Gherardesca alle prese con il... Tapiro. Il tapiro mangia pane bianco, però è molto pigro e fa tanto caldo adesso. Nice tapiro. Nice. Il tapiro in Italia è tristemente noto per il giornalismo d'assalto di destra, ma noi lo vogliamo riabilitare all'interno dell'ecosistema televisivo. Vieni qui, tapiro. Vieni qui. Bello. Il tapiro è un animale buonissimo, in realtà. Vieni. Tapiro, bravo. Aia, aia, porca. Abbiamo assuntito il tapiro. Eccolo qua, Costantino della Gherardesca col tapiro Totto Corillo che gli ha, come si chiama, mi hanno sgagnato un dito. Vabbè. Ma era vero? Cioè, sì, era vero, è vero. Si vede nel video che noi abbiamo mostrato alla radio. Eri distratto. No, alla radio è complicato. Eri distratto. Beh, allora, parliamo. Per parlare di Pechino Express, ma anche del successo, come dicevi, direi due, io sono andata a Torino. Sì. C'era il Pre-Italia. Sì. Io ho fatto proprio una toccata e fuga, sono partita la sera, sono tornata la mattina, ho fatto proprio una corsa per incontrare il direttore di Rai 2, Angelo Teodoli, e intanto gli ho chiesto le ragioni di questo successo di Pechino Express in televisione e sui social. Ecco qua il direttore di Rai 2, Angelo Teodoli. Sì, Pechino Express ha in nuce nel programma questa potenzialità molto forte. Chiaro, non ci si può rivolgere ai giovani senza utilizzare i mezzi di comunicazione delle persone più giovani, quindi ormai i social non sono per quelli un po' più anziani il social è un mondo da scoprire, per le fasce d'età più giovani, anche le fasce d'età intermedie, anche i 40-50 anni, è un modo di esprimere e di comunicare, un modo di parlare. Quindi se vuoi toccare e fare un prodotto per quelle fasce d'età devi tener conto anche di questo aspetto, quindi devi poter dare la possibilità di comunicare anche attraverso i social e gli altri, partecipare quindi. Un altro conduttore social, Nicola Porro, Virus. Questa è stata un'ennesima stagione in cui i talk show si sono sfidati, duelli nella stessa serata. Come la vedi tu questa guerra tra talk e come si inserisce in questo virus? Non credo ci sia bisogno di fare battaglie, perché poi in realtà non c'è. L'importante è cercare di fare servizio, quindi le battaglie sono soltanto degli escamotage di marketing, ma penso che sia una battaglia un po' troppo affollata adesso per poterle considerare delle sfide, ma sembra più che altro una confusione di voci. Quindi Rai 2 con un virus ha scelto di fare un discorso un pochettino più pacato, quindi non utilizzare i meccanismi classici, quindi più che altro nel discutere, nel parlare, e quest'anno abbiamo introdotto in maniera organica al programma anche una web room, così come è successo in maniera molto più semplice magari per dei programmi di intrattenimento, anche in un programma di informazione, una web room che quindi è una linea aperta sui social e sul web, ma anche un elemento di stimolo per la trasmissione. Quindi stiamo cercando di fare questa integrazione di stimoli sostanzialmente. Ha detto una cosa interessante il direttore di Rai 2, l'affollamento. Siamo tornati ancora sulla guerra tra talk, forse tutti insieme nella stessa serata non è stata proprio, cioè insomma diciamo che gli ascolti non sono stati, forse tutti come te la sera stanno a guardare, il martedì sera stanno a guardare. No, ma perché il pubblico dei talk show politici è quello lì, è quel numero lì, e peraltro un po' cala perché il pubblico dei talk show politici, che sarà cos'è, il 10%? Il 12% sì, lo metti assieme, sì, alla è un po' degrada, perché anche lo stesso pubblico del satellite, delle serie televisive, visto che abbiamo detto che House of Cards è la politica, le serie, quindi hanno lo stesso pubblico. Sai cosa secondo me sarà il bello, la vera sfida da vincere quest'anno? È l'idea originale di collaborazione tra social network e TV in TV, perché esatto, sul social infatti, network appunto la web room di esatto, cui ci vediamo, vediamo chi sì. Azzeccherà la via più originale e anche più efficace, perché per ora sono tentativi, vediamo se questa sarà la stagione in cui un modello si afferma. Ma per concludere con il direttore di Rai 2, una domanda che non potevo non fargli: ormai anche al bar non solo si parla dei risultati di calcio, ma si parla dei dati d'ascolto della TV, ma ne sappiamo tutti, ormai è un argomento di conversazione, come mai? Sembra una cosa, un problema quello di dire quando è dato alto, dato basso, in realtà è un escamotage di marketing anche quello. Io penso che sia utile anche a chi fa trasmissione che si parli di dati d'ascolto, perché comunque se ne parla nascono sfide, cose, comunque certamente la sfida è un elemento di attrazione verso dei programmi o verso qualsiasi attività, no? Quindi quando c'è una sfida nasce un interesse in qualche modo, dimostra anche la televisione, game, non solo dei talk. Stanno per arrivare questi Twitter rating, social rating che insomma che analizzerà Nielsen. Per te quanto conta il gradimento sui social, la penetrazione sui social, appunto il trending topic o queste cose, guardando appunto dal punto di vista di chi di numeri se ne intende e li maneggia da molto tempo? Ma i trending topic sono punte di iceberg, in realtà è quello che servirebbe, così come si utilizzano i dati oltre che per discuterne e farne oggetto di discussione al bar, è anche importante per capire se alcune cose funzionano o no. Attualmente diciamo la misurazione dei social è molto molto frammentata e poco organica, anche se basta seguirne magari uno dei rilevatori, uno dei sistemi di rilevazione, per capire, seguirli giorno per giorno, e uno capisce già lì delle dinamiche di cosa sta succedendo, no? Come vengono utilizzati o quant'altro. Noi vediamo ad esempio un Pechino Express, il giorno prima della prima puntata era tantissimo, il giorno della seconda della puntata stessa era altissimo, il giorno dopo ancora più alto, poi man mano cala. Quindi c'è una dinamica di interesse molto forte, quindi non ci sarà più solo un grafico di una trasmissione, ma ci saranno 3-4 grafici, e quindi bisognerà integrare e cercare di mediare su dei dati un po' più complessi, ma insomma bello, però bellissimo. Però Leone e Vianello si divertono a twittare, tu no, non ti sei fatto conquistare? Per me è uno strumento, non è un... un gioco. Ah, però. Hai visto, eh? Però. È stoccata le mangiare. Sì, è staccato finale. Sì. Va bene, poi, no, ridendo, mi dicevi ridendo, che di numeri se ne intende anche perché... Sì, perché lui è laureato in statistica. No, ma è interessante. È interessante questa cosa. Il direttore di una televisione è laureato in statistica. Beh, guarda che tutto sommato ci è sta. Una competenza che ci sta. Big data, sì, big sì, TV. Sì, sì. YouTube. E siamo all'ultimo spicchio, l'ultima fetta del nostro Radio sì, Tube per che oggi. Che spicchio! Ma certo, perché noi, dulcis in fundo, vogliamo parlare di qualcosa di molto importante. In tutte queste 64 puntate di Radio Tube, alla fine diciamo che è sempre venuto fuori una sorta di viaggio in tutto quello che sta succedendo in Italia, attraverso quello che vediamo, sentiamo, ci rimanda la rete, ma molto spesso anche un viaggio in quello che succede nel mondo. E grazie anzi, anche alla rete. Anzi, è proprio questo, forse la rete ce ne parla di più dei mezzi tradizionali. Sì. Ad esempio, di questo argomento, secondo me, nei telegiornali si è parlato troppo poco, caro Daniele. Sono d'accordo, i giornali un po' meglio, perché comunque l'hanno seguito di più. Noi abbiamo raccontato Venezuela, abbiamo sì. raccontato altre parti del abbiamo mondo. Abbiamo raccontato Russia e Ucraina, abbiamo raccontato tanto. Adesso cerchiamo invece di collegarci con un mondo molto particolare, cioè con Hong Kong. A Hong Kong stanno succedendo delle cose molto importanti, molto interessanti, che spesso passano attraverso la rete. Io vorrei subito farvi sentire un brevissimo audio, uno dei tanti video che io ho trovato, ad esempio, su Facebook. Questo è uno dei video che proprio questa mattina ho scovato in rete. And here are the students in my office and they're recycling plastic bottles. First they cut them to fit their faces and then they put sort of straps and things on them. Questo video firmato Nuri Vittaci racconta di alcuni ragazzini di Hong Kong, ragazzi molto giovani che seduti sul pavimento, si vedono nel video, stanno riciclando bottiglie di plastica per farle diventare maschere antigas. Insomma, dalla musichetta sembra qualcosa così di innocuo, sì, gentile, tenero. Persino. Beh, insomma, Daniele, ci presenti tu l'ospite di questa Abbiamo sera? Al telefono Valentina Giannella, collega giornalista che sta a Hong Kong. Valentina. Buonasera. Posso buonasera. Dire buonasera, anche se da voi è ancora pomeriggio, ma qui noi andiamo verso la sì, però andiamo verso la sera. Anche qui c'è l'ottobre, quindi va bene. Dunque, tu hai dato vita, assieme a una tua collega, a un'agenzia di informazione da un mondo che a noi appare lontano, ma in realtà vive cose a noi molto vicine, che si chiama Mind the Gap. L'indirizzo è mindthegap.hongkong.com. Ci racconti che cosa sta succedendo a Hong Kong? Ma a Hong Kong sta succedendo nell'ultima settimana qualcosa di molto importante, qualcosa che è stato trovato da questa città straordinaria alle porte dell'Asia da anni ormai, e da qualche mese si era concretizzato in un movimento studentesco e anche politico che riuniva tutti i partiti diciamo meno allineati con Pechino, che poi comunque amministra la regione statuto speciale di Hong Kong direttamente. Questo movimento nasce con Occupy Central qualche mese fa, nell'ultima settimana si è evoluto velocissimamente, diventando nel giro di poche ore da Occupy Central a Occupy Hong Kong, perché le persone sono scese in strada in modo del tutto spontaneo nel giro di 48 ore lo scorso weekend, e da Occupy Hong Kong è diventata Umbrella Revolution, perché nella notte di domenica scorsa a Hong Kong la polizia ha caricato gli studenti che pacificamente sostavano davanti agli uffici dei palazzi governativi. È stato un attacco improvviso, io ho parlato con le persone che erano presenti in quel momento, addirittura c'erano dei preti italiani che avevano appena finito di dire messa, questo per farvi capire il clima di tensione che ci che c'era al momento. Quindi è stato un attacco improvviso e ingiustificato. È stato subito un tam-tam rapidissimo attraverso i social network, attraverso Twitter, attraverso Facebook, attraverso Instagram e anche attraverso le app di messaggistica, quindi WhatsApp e FireChat. FireChat è una nuova app che utilizzano molto qua a Hong Kong e che negli ultimi giorni ha avuto un'espansione straordinaria, perché è un'app che permette lo scambio di informazioni anche in assenza di rete. E, nel giro di poche ore Hong Kong si è buttata letteralmente in strada, e da quel momento è scattato l'hashtag Umbrella Revolution. Perché? Perché contro i gas lacrimogeni e lo spray urticante, questa notte in cui c'è stato un grande acquazzone, l'unico strumento che avevano di difesa era l'ombrello. Quindi da quel momento Instagram e Facebook hanno cominciato a mandare in giro immagini di ragazzi che si proteggevano gli occhi con gli ombrelli, e da quel momento è nata l'Umbrella Revolution. Valentina, qual è la richiesta principale? Ovviamente noi qui dall'Italia sappiamo che la richiesta della piazza è maggiori libertà, democrazia. Nel concreto che cos'è la richiesta? Qual è? Nel concreto la richiesta si basa semplicemente sui numeri. Infatti il governatore di Hong Kong è soprannominato 689. 689 perché? Perché 689 sono i voti che ha avuto il governatore attuale di Hong Kong nel 2012 per governare una regione di 7 milioni di abitanti. Quindi questo è il grande paradosso. Nel 2017 la promessa, come ricordavi, che è stata fatta dalla Cina durante l'handover del 97, è stata quella di avere questo suffragio, questo famoso suffragio universale. Ricordiamo che Hong Kong al momento votano soltanto un comitato di elettori composto da 12.000 emeriti vicini al governo cinese. E il suffragio universale porterebbe al famoso one man, one vote. Ma, c'è un ma, Pechino non ha consentito la scelta dei candidati, cioè comunque ci sarebbe una rosa di candidati che sarebbero direttamente nominati dal partito centrale di Pechino, e questo è quello che gli studenti stanno contestando. Loro vogliono una vera democrazia, vogliono poter votare chi li governerà in tutta libertà. Valentina, ti ringraziamo tanto per essere stata con noi questa sera, però noi vogliamo continuare a seguirti, quindi mindgap.hk come Hong Kong.com, ma anche il tuo account di Twitter @www.giannella, perché stai postando delle cose molto interessanti e ci sembra di essere lì, perché davvero ci stai facendo seguire tutto in tempo reale. E complimenti per lo scoop di Barack Obama. Questa la cosa, mitica intervista al fratello di Barack Obama. Correndo. Un giorno chiediamo come è riuscita a ottenere. La richiamiamo, ce la facciamo raccontare. Gliela facciamo raccontare. Grazie Valentina per essere stata grazie con noi e buona ciao. Notte. Buona serata. Si conclude qui questa puntata di Radio Tube. Noi ci ritroviamo domani alle 3 comunque con la puntata della domenica. E che sia davvero una buona notte per Hong Kong. Ma speriamo. Noi ci ritroviamo domani. Grazie a Fabio Cantadori in regia. Domani ancora con Radio Tube. Ciao.